No, basta, benissimo, grazie. Scusate la voce, è un cambiamento e anche in peggio, ma pace. Dunque, il tema di questo mio discorsetto è un tema molto particolare e molto limitato, nonostante qualcuno mi abbia fatto notare che sono 15 punti. Si tratta di questo, di considerare qualche tema, qualche aspetto e sollevare qualche problema a proposito del magistero nell'orizzonte della comunicazione e dei problemi che la comunicazione oggi solleva. Parlare della comunicazione e dell'informazione oggi è un discorso immenso. Io ricordo soltanto allo sviluppo di diverse discipline che sono impegnate entro quest'ambito e che hanno ormai realizzato delle ricerche con dei risultati quanto mai sofisticati, quanto mai complessi. Ricordo soltanto quello che va sotto il nome, quelle che vanno sotto il nome di teorie dell'informazione e della comunicazione, per dire che ad esse non voglio neppure ora dedicarne pure un cenno. Soltanto voglio sottolineare che proprio dal complesso di questi studi emerge come un settore specifico la comunicazione umana e che la comunicazione umana dice non soltanto un momento. Vivere e quindi il suo integrarsi effettivo dentro la comunità e direi nell'orizzonte del mondo. Ci sono infinite forme di comunicazioni, addirittura l'integrità dell'essere umano è un essere comunicante. Io limiterò il mio discorso alla comunicazione verbale. Quindi un settore molto limitato, avvertendo però che il livello umano della comunicazione verbale in verità si rapporta e in qualche modo riesprime, rielabora, integra tutti i momenti, tutte le dimensioni della comunicazione umana. Ebbene, nel quadro, diciamo nell'orizzonte specificamente sociologico, parlare di comunicazione a livello umano significa soprattutto connotare, non soltanto il lanciare un messaggio, ma in qualche modo richiedere una risposta, non soltanto un feedback. A livello sociologico, comunicare significa stabilire una forma dell'interazione. Ecco, tendere a questo. Quando questa interazione manca o è ridotta eccessivamente, in realtà si compromette l'autenticità umana della comunicazione medesima. Questo mi pare un altro punto che valga la pena proprio di mettere a capo di questo discorso. Ebbene, ad un certo momento nella comunicazione umana si sono introdotti i mezzi della comunicazione, a partire dalla scrittura, non soltanto i mezzi più recenti. Ebbene, non appena la comunicazione si fa comunicazione mediata da qualche mezzo, intervengono una serie nuova e quanto mai caratteristica di fenomeni. Voglio indicarne soltanto due. In generale, direi, avviene una forma di depersonalizzazione della comunicazione. E questo significa, anzitutto, una sorta di decostruzione della comunicazione medesima. I media, qualche media fa l'audio, qualche altro fa il video, ecco la decostruzione. Alla decostruzione corrisponde e deve corrispondere nel ricevente una ricostruzione della comunicazione. Ebbene, questi due momenti complicano immensamente il rapporto tra i due termini della comunicazione medesima. In linea di massima possiamo dire quando si introduce il mezzo nella comunicazione e così sono posti i fondamenti almeno per la comunicazione di massa. La formula comunicazione di massa è una formula che ha un'evidente connotazione negativa e spregiativa. Per sé questa non è inevitabile. Comunicazione di massa significa proprio inizialmente l'ampliamento della comunicazione ad un orizzonte che la comunicazione diretta e personale non ha accessibile. La connotazione negativa dipende dal fatto che proprio questo ampliamento facilmente corrisponde a tutta una serie di fenomeni, ma in particolare alla impossibilità del feedback, della reazione, della retroazione, per essere più precisi, così che il termine della comunicazione è fissato, irrigidito in uno stato di passività che facilmente si presta a delle manipolazioni. Questa è la ragione della negatività di questa negazione di questa comunicazione di massa. Quando dentro questo orizzonte entra il fenomeno della informatizzazione della comunicazione, allora in realtà non soltanto avviene qualche cosa di nuovo, diciamo, a livello di complicazione quantitativa, ma c'è da fare i conti con un salto qualitativo. Il calcolatore non è più uno strumento di comunicazione come altri erano strumenti di comunicazione. In realtà esso integra un sapere, integra tutta una serie di elementi i quali giocano diversamente che quello che è lo strumento tradizionale, al punto che io dubito che la categoria di strumento possa adeguatamente essere impiegata per definire esattamente tutto questo mondo della informatica e della telematica. Ecco, questo è una serie di richiami, non più che richiami, che era necessario appunto porre per dare un minimo di chiarezza al discorso. Quello però che io vorrei sottolineare sono alcune implicazioni e alcune conseguenze di questi elementi introdottisi di fatto nella comunicazione. Anzitutto, la prima sottolineatura: la tecnologia non sorge in un mondo neutro, non sorge senza determinati indirizzi, senza determinati scopi, eccetera. E tutto questo va considerato, va integrato nel nostro discorso, perché proprio a questo modo si comincia una sorta, o può avvenire, una cattura ideologica già dello strumento della comunicazione, meglio addirittura del sistema della comunicazione. Non solo, ma ad un certo momento, proprio attraverso questa complessificazione delle figure, dei mezzi di comunicazione, avviene un fenomeno peculiare di organizzazione del sapere. E l'organizzazione del sapere è quello che entra in gioco nella definizione dei singoli messaggi. Al punto che si è potuto parlare, anche qui accenno soltanto, al sorgere del prodotto culturale, non più il messaggio, ma il prodotto vuol dire organizzazione, industria, eccetera, eccetera, culturale, si è potuto dire che lo strumento, il mezzo, amplia la percezione, si è potuto dire in maniera più radicale che il messaggio è identico allo strumento medesimo. Tutto questo ha dato origine a quelle discussioni che io non voglio assolutamente riaccendere tra apocalittici ed integrati. Ecco, quello che mi interessa in maniera proprio immensamente più modesta è appunto sottolineare alcuni aspetti che poi in maniera direi quasi immediata e diretta entrano nell'orizzonte del mio discorso. È importante soprattutto nel confronto di questa comunicazione di massa informatizzata e telematizzata, direi riprendere il discorso che ho accennato della decostruzione del messaggio e della sua ricostruzione. Qui il discorso si amplia in maniera davvero spropositata. Anzitutto ci sarebbe da sottolineare che quello che qui accade è una sorta di annullamento dell'emittente del messaggio, cioè di colui che lancia il messaggio. Non si sa più chi sia, proprio in questo processo di decostruzione, di complessificazione. C'è uno che lo presenta, ci sono altri, uno staff che lo elabora, ci sono altri che lo comandano, lo commettono, eccetera, eccetera. La complessità è tale che può persino accadere che l'autore primo del messaggio scompaia totalmente in colui che lo propone, il quale fa piuttosto che il funzionario di chi lo ha comandato il titolare, anzi addirittura la autoesposizione, il messaggio che diventa autoproposizione del messaggero. Questo è un dato. L'altro, la complessità di questo gioco è tale che lascia spazio, per esempio, all'intromettersi di forze che addirittura potrebbero tendere in direzione opposta a quella che il messaggio aveva intenzionato. Ecco, sono elementi che credo debbano essere specificamente considerati nel nostro discorso. Pensate di fatto che cosa avviene quando il Papa parla e i giornali ci riportano i suoi discorsi. Ecco, questo è un fatto tipico di questa complessità. E credo che ci sia da sottolineare ancora che anche nella ricezione è stato rilevato la presenza e la funzione estremamente efficace di quelli che si chiamano gli opinion leaders, i quali mediano il messaggio trasmesso dal medium a gruppi determinati. Anche questo è un elemento che dovrebbe essere assolutamente considerato. Pensate per esempio alla funzione di un parroco, tanto per parlare, proprio riferirci già direttamente al nostro discorso. Ecco che abbiamo dunque qui una serie di elementi quanto mai interessanti che mettono in gioco la possibilità di comunicazione tra il magistero, che noi intenzioniamo appunto nella nostra tematica, e i termini ai quali il magistero dovrebbe o vorrebbe rivolgersi. Un altro elemento che va assolutamente introdotto è quello della valenza della situazione comunicativa. È stato variamente richiamato anche nei discorsi che abbiamo fatto, e questo è un tema al quale credo troppo poco prestiamo attenzione. Guardate che la situazione comunicativa è tale da poter dare a una formula che noi diremmo con tutti i criteri coerenti falsa il valore di verità e viceversa. Io ho cercato di riflettere un pochino su questo tema in direzione per esempio della cosiddetta informazione al malato, dove questo gioco si fa complessissimo e dove la importanza di questa situazione della comunicazione diventa davvero decisiva. Ma questo noi oggi dobbiamo considerarlo soprattutto in un'altra prospettiva, di fronte al carattere multiculturale dei destinatari. Oggi la nostra situazione da questo punto di vista è quanto mai complessa e andrà via via arricchendosi o complessificandosi. Non c'è più neppure l'unità culturale, non dico l'unità dei soggetti, ma delle culture alle quali ci si rivolge. Questo sia in senso diacronico, e dobbiamo pensare che questo è sommamente importante, perché il magistero non guarda pressoché mai intenzionalmente a un istante, a un momento, ma addirittura si proietta, se non verso l'eternità, almeno verso lunghi archi temporali, ma la multiculturalità contemporanea. Da questo punto di vista io credo che dovremmo rivolgere un'attenzione particolare a certi studi. Proprio qui a Trento non si può non ricordare lo European Value Studies, che ha avuto un interesse particolare. Qui sono stati pubblicati anche i risultati, cioè di questa organizzazione che cerca di cogliere la mutabilità o le invarianze dei valori nell'europeo a distanze decennali. È già giunta alla seconda comunicazione e osserva delle cose assolutamente caratteristiche nello sviluppo di questi processi, non tanto perché cambino i valori con quella radicalità o con quella celerità che facilmente noi siamo inclini a dichiarare o a credere, quanto piuttosto perché si fanno dei particolari gruppi, no? di individui, dei particolari gruppi che si identificano in forme peculiari e in questo si distinguono e si contrappongono abbastanza decisamente ad altri gruppi proprio nello stesso ambito. Quindi un processo di omologazione insieme ad un processo di individualizzazione correlati. Questi sono dati molto interessanti che credo sia necessario assolutamente integrare nella nostra osservazione, così come è necessario integrare come sintomo, ma anche come direzione verso la quale pensare, per esempio, la nuova sensibilità, la nuova mentalità, il nuovo linguaggio dei giovani in particolare, che è assolutamente un elemento necessario per poter, direi, impostare almeno il discorso. Bene, tutto questo è non ovviamente la indicazione dei temi, ma semplicemente un indirizzo verso i temi che si dovrebbero identificare e che sono rilevanti proprio per questo nostro discorso su magistero e comunicazione. Se noi veniamo ora in maniera più diretta, perché voglio restare anche in un tempo limitato modo da poter permettere un po' di dibattito, sì, per forza, padre Maranzini, vai, poi con lui faccio i conti dopo. Bene, allora cosa dire? Ecco, anzitutto bisognerebbe aver chiara coscienza che gli insistenti discorsi che noi facciamo su comunione, comunità, non soltanto non possono prescindere, ma sono fondati dalla comunicazione. Questo è il primo dato elementare. In secondo luogo, che non soltanto la comunicazione è legata alle categorie fondamentali del cristianesimo, ma che c'è una tipicità della comunicazione ecclesiale, la quale però tipicità va definita prima di tutto in rapporto alla globalità della comunicazione umana, di cui assume tutte le figure, tutte le formule, tutt'al più sarà la sua specificità sarà una sorta di sovradeterminazione, non di esclusione. In secondo luogo, che la ampiezza della comunicazione ecclesiale è davvero totalizzante, non c'è nessun settore della Chiesa che può essere distaccato da questo vivente processo di comunicazione, dove non è possibile indicare i momenti, i soggetti passivi e quelli attivi. È proprio assolutamente passività e attività è il segno soltanto di una circolarità di questa comunicazione. Ebbene, dentro questa comunicazione ecclesiale, che è la prima fondamentale e fondante forma di ogni comunicazione, ecco lì si colloca il problema della comunicazione magisteriale. Questo mi pare che sia essenziale dichiararlo. E dichiarare questo significa anche indicare che il primo momento del magistero non è quello dottrinale. Il magistero ha anzitutto funzione cherigmatica. Il magistero annuncia il Vangelo prima di tutto, poi farà anche altro, ma il suo compito ministeriale prima di tutto è questo. Ebbene, da questo punto di vista, questa mattina ormai è emerso in maniera abbastanza chiara, sarebbe necessario davvero fare la storia del magistero, la storia delle figure del magistero. E da questo, ancora da questo punto di vista, io penso si potrebbe dare una risposta al problema che si richiamava ieri circa il carattere normativo, la Verbindlichkeit, no? Di quelle eventuali interventi. Se noi riuscissimo a fare proprio la fenomenologia degli interventi del magistero, potremmo chiederci quale tipo di questi interventi sarebbe auspicabile proprio in vista di questa recezione, per esempio, dei risultati di questi dialoghi. Che se dovessimo davvero dire che certe forme non sono possibili, allora sarebbe da dire non sono possibili, e dunque sarebbero da criticare come insussistenti certe forme del magistero che invece percorrono e praticano quello che ad altro livello diciamo impossibile, ma questo esige un'attenzione molto particolare. Credo che sia assolutamente da osservare che la figura dominante che noi abbiamo del magistero è legata all'epoca moderna, in particolare a quell'epoca nel quale il magistero si è contrapposto alla modernità e vi si è contrapposto assumendone passivamente tutto quante le strutture, le categorie, i metodi determinanti. Non sto neppure a elencarli, ma credo che questo sia fondamentale. E per, come ultima annotazione da questo punto di vista, io inviterei a riflettere un pochino sul magistero di Giovanni Paolo II, sulle sue forme. Dico due documenti, vives in misericordia e veritatis splendor. Ecco, dovremmo analizzare che parentela c'è tra queste due figure di enciclica. Si chiamano encicliche, ma questo è davvero giocare sull'equivocità dei nomi, oppure sul carattere esteriore del documento. Ma la struttura, i contenuti, la prospettiva di questi documenti è talmente diversa che non possono, a mio giudizio, essere accostati nello stesso genere. Tutto questo diventa decisivo per l'interpretazione di questi medesimi documenti e anche della loro compossibilità entro un certo quadro. Voglio dire, non so se la Veritatis Splendor giustifichi un documento come la Dives in Misericordia, proprio per dirlo in maniera un po' cruda. Bene, detto questo, però, diventa necessario proprio richiamare quelle che sono, diciamo, le dimensioni necessarie, costitutive del Magistero, perché proprio su queste si possa misurare il rapporto e il significato, o qui davvero la transfinalizzazione e la transsignificazione che assumono all'interno dei mass media. Notate che i mass media hanno delle caratteristiche peculiari, per un certo verso, e non dobbiamo nasconderlo o negarlo questo. I mass media permettono la comunicazione in tempo reale, la comunicazione immediata, ci si può parlare direttamente. Quello che prima era affidato ad una lettera, enciclica o meno, e era condizionata dal ritardo, dal tempo impiegato, dalle poste, no? Per condurre. Guardate che qui può essere superato nel mass media, no? Perché di fatto lo vediamo, si parla contemporaneamente da luoghi diversi, si possono intessere dialoghi. Ma vediamo anche con quale facilità chi costruisce il dialogo è l'operatore televisivo. Chi ha osservato quel che è accaduto in questi dialoghi nell'ultima campagna elettorale lo vedeva. Bastava che si fissasse la camera sul volto dell'uno o dell'altro, si mettesse l'uno e l'altro sullo sfondo perché il messaggio mutasse completamente. Ecco, quindi tutto questo diventa davvero importante. Il Magistero oggi in grandissima parte è affidato ai mass media. Allora, le sue tipiche valenze e le sue esigenze, no? Come possono essere interpretate, rispettate o come sono negate e impedite dai mass media? Ma quali sono queste valenze? Qui sono fortunatissimo perché questa mattina mi hanno anticipato, e per fortuna che io avevo già dato lo schema prima, altrimenti avreste avuto fondate ragioni che io l'avessi copiato questa mattina, no? Ecco, ma allora le ricordo velocemente. Anzitutto proprio la valenza veritativa. Io credo che sia impossibile pensare a un magistero ecclesiale disinteressato, non preoccupato, non intenzionato alla verità. Ma abbiamo ascoltato questa mattina che cos'è la verità. La verità è Cristo. Non solo. Pensate che questa è la prima affermazione della Veritatis Splendor, che poco dopo, senza mostrarsi resa conto di un piccolo trapasso verbale, parla delle verità. Quanti Cristi abbiamo? E bisognerebbe chiederselo. E se non affrontiamo questi problemi, guardate che giochiamo sull'equivoco. Ecco, dunque, valenza veritativa. Ma che cosa dice questa valenza veritativa? Ecco, questa mattina Ruggeri un pochino lo ha ricordato, io rinvio semplicemente, soprattutto più se mai poi lo svilupperò nel testo. La seconda, una valenza veritativa non dottrinaria. E anche qui è stato detto moltissimo, ma io mi chiedo, cari amici, quelle note teologiche che ieri Monsignor Sartore ha ricordato, che oggi Padre Maranzini ha largamente citato, sono forse riferite ad altro che ad una formulazione, a delle proposizioni che si vogliono di fede? E queste proposizioni possono essere accostate una all'altra o vanno integrate l'una con l'altra? E la integrazione con che modelli avviene? Con quelli della logica formale? Della logica della non contraddizione? Oppure con tanti altri tipi di unificazione. Noi questa mattina abbiamo sentito questo punto di vista, anche dopo pranzo sono stati ripresi suggerimenti, suggestioni molto interessanti, che però devono essere tematizzate anche da questo punto di vista. Io non posso pensare a una proposizione di fede fuori dal contesto immediatamente delle proposizioni di fede e poi dei mille altri contesti, dal contesto globale della comunicazione ecclesiale. E tutto questo dice una molteplicità di livelli sui quali l'unificazione deve avvenire in una maniera che deve imporci, non ci impone il problema del modello di unificazione, fuori della quale unificazione le singole proposizioni sono semplicemente condannate alla insignificanza. E questo è un grosso problema. E questo incide su anche il discorso sulla gerarchia delle verità. È un discorso molto importante, ma deve essere prodotto e deve essere sviluppato proprio con questa attenzione, no? Al carattere non prioritariamente dottrinario delle proposizioni di fede e al carattere proprio di necessaria integrazione delle molteplici proposizioni. Ecco, questo mi pare che sia un punto sommamente importante. Ecco, dunque, il sistema dogmatico, il sistema proposizionale, che figura deve avere? Ebbene, una terza esigenza, anche questa è già stata detta, quindi sono libero. Queste proposizioni non hanno valore veritativo, non dottrinario, hanno invece valore valenza testimoniale. E questo voi capite che rispetto al tema comunicazione diventa assolutamente decisivo. Quando mi fanno vedere il Papa che dà la benedizione, io di voto, quando so che il Papa è in San Pietro, che dà delle benedizioni, mi faccio il segno della croce. E se poi rivedo la registrazione, arrivo fin qui, poi mi fermo, perché dico, ma devo rifarmelo o no? E se dico messa, ma capite che cosa succede? Questo diventa un problema reale. Ecco, la testimonianza di chi, quando il messaggio è ricostruito da NN, è in videocassetta, da NN, ecco, capite? Questo diventa un problema sommamente delicato, ecco. Ma anche qui non insisto, invece dico, anche il tipo, il modello, diciamo di configurazione del messaggio, qual è? Quali modelli di configurazione del messaggio? E qui mi risparmio altre indicazioni. Avevo citato Ruggeri, no? Allora gliel'ho fatto vedere stamattina che qui era citato lui e lo salto allora per dire un'altra cosa, che oggi noi non possiamo più parlare di una proposizione di fede che non faccia riferimento alla dialogicità. Il dialogo è stato dichiarato autorevolmente come un'esigenza della proposta di fede, della comunicazione ecclesiale. Può farne a meno il magistero, ma se non può farne a meno, come deve atteggiarsi? E di fronte a certi documenti, come devo io valutarli, interpretarli in riferimento a questa esigenza dialogica che forse essi esprimono e alla quale danno risposta, o nell'ipotesi che questa non si vedesse, cosa debbo dire? Non è poco questo, e questo si complica in maniera straordinaria quando metto in conto altre dimensioni, perché sono già state dette, no? La dimensione comunionale, eccetera, eccetera, l'attenzione all'altro, comunionale e attenzione all'altro. Anche qui sono dispensato dall'insistere su questo tema, che è importantissimo, ma che comunicazione ecclesiale è quella dove l'altro non è atteso, non è inteso? Attenzione, non basta dire atteso o inteso. Stamattina l'ha detto chiarissimamente il signor Sartori, bisogna che l'altro sia integrato. E dunque un tipo di magistero che non abbia questa precisa attenzione all'altro e che non muova in direzione di questa integrazione, che è ascolto, è lasciar parlare è far parlare l'altro. Che magistero è? Voglio dire, non risponde più alle esigenze che oggi il magistero medesimo ha dichiarato necessarie. E allora vedete in questo quadro cosa significa, per esempio, il dialogo ecumenico. Amici, se c'è stato, abbiamo riascoltato, una stagione, un'epoca della definizione della nostra dottrina, addirittura in contrapposizione, no? L'epoca controversistica, ebbene noi non possiamo più accettarlo sic et simpliciter, quel magistero, perché evidentemente ha dichiarato la sua parzialità, ma una parzialità che non è soltanto bisognosa di un'aggiunta dall'esterno, ma di una integrazione vitale e dunque di un ripensamento radicale. Noi dobbiamo il magistero, il nostro linguaggio, che vuole essere di dichiarazione della fede, di testimonianza della fede, deve integrare la verità dell'altro. È stato detto chiaramente che non posso sperare in una sintesi. Ma questo vuol dire che dovrò sempre cercarla oltre i limiti che di volta in volta ho raggiunto, non che possa acconsentire ad una situazione di fatto, e per cui qui non ci incontriamo, tu va per la tua, qui confliggiamo, e dunque benissimo, confliggiamo. No, io confliggo, ma confliggo per la comunione, nella comunione e per la comunione, che prevedibilmente questo conflitto non giunga mai ad una soluzione. Significa soltanto che quello sarà il compito, anzi no, il comandamento che in ogni istante mi si ripropone. Questo è il punto. Ma è stato detto anche qui, e così vado velocissimo verso la conclusione, è stato detto che non basta parlare con gli altri cristiani, bisogna parlare con le altre religioni. Guardate che qui si ripropone esattamente lo stesso tema, gli stessi moduli, le stesse esigenze. Mi è stato detto che non basta parlare con le altre religioni. Monsignor Sartori ha insistito ieri, cioè, ci annoia a dire che la valenza è antropologica, è vero, no? Se lo dice sempre. E allora facciamone tesoro. Ormai non c'è più uomo che la Chiesa possa sentire estraneo a se medesima. Non ce n'è più. Ma attenzione, non basta ancora. C'è un'altra esigenza. Perché dire antropologico è un po' troppo comodo, un po' troppo formale. Cari amici, si sente parlare da troppo tempo ormai delle donne. Eh sì, il femminismo, c'è scritto, il femminismo. E non possiamo più parlare di valenza antropologica e di uomini. Dobbiamo dire che cosa le donne sono chiamate a dire. Che cosa dobbiamo invocare dalle donne che ci dicano, o meglio, come dobbiamo invocare perché le donne finalmente parlino? Questo è importante. E non è tutto. E che cos'è la preferenza per i poveri? Carmi, vuol dire che non sono gli uomini quelli che dobbiamo intendere, è il povero. Le presenze, si è parlato di presenze di Cristo in questi giorni, non se ne parlava più a Toreglia, se ne parlava a Toreglia, beh, lo stesso, sapete, quando uno fa un congresso dietro l'altro e stupidisce del tutto. Ebbene, ma le presenze del Cristo, ben una, reale, se non ha contatto Zuppe, è realissima, è il povero, cari amici. Allora, io debbo giudicare il documento del magistero dal punto di vista del povero, dell'ascolto, della voce data al povero. Negativamente dovrò fare la critica ideologica dei documenti, positivamente molto di più, devo ascoltarne la voce genuina. È questo che è importante se noi vogliamo davvero essere coerenti in questa direzione. E concludo però con due osservazioni, perché così che mi sembrano importanti. Oggi Rogeri ha detto giustamente che noi dobbiamo anche essere aperti al futuro, no? Cioè, attenzione, io vorrei sottolineare questo, che il futuro è quello che dirà qual è la mia identità. C'è la preoccupazione di salvare, di garantire la propria identità, giustissima. Io, se guardo a me stesso, ma credo altri qui presenti non possano dire altrimenti, se guardo a me stesso e penso come io pensavo la mia identità cristiana quando avevo 20 anni, non so più se trovo un pezzo salvato. Io sono convinto che ho garantito molto meglio la mia identità cristiana, alla quale allora aspiravo, tendevo, credevo, proprio cambiando direzione, col cambiamento di mondo che mi è avvenuto intorno, che mi ha coinvolto, che ho cercato più o meno di interpretare, di seguire, di contrastare anche. Ma lo capisco ora, che quelle istanze da allora sono salve. Allora avrei detto che io oggi sono eretico, no? Vale a dire, è il futuro, la identificazione della mia identità. Voglio dire poi, è colui che viene che mi dirà qual è stata la mia identità o qual è. Perché il futuro qui in definitiva è davvero il futuro escatologico. Ma attenzione, il futuro escatologico non è quello che verrà, un salto, oggi camminiamo per questo mondo, poi a un certo punto boom, finiremo a cavallo di un missile che ci porta fuori. No, non è così. L'escatologia è questo nostro camminare. E questo è importante, dunque è proprio questa ricerca continua, ecco, la infinita distanza della escatologia, che si traduce poi nella sua intima prossimità, per noi prende la figura proprio della continua ricerca, del continuo andar verso, pur sapendo che l'ultimo passo lo faremo non noi con il nostro futuro, ma quello che viene. E dunque colui che ci offrirà un avvenire. Questo mi pare importante. È l'ultimo, io credo che uno dei modelli che oggi noi dobbiamo introdurre, accogliere, è quello della storicità della rivelazione. È proprio insistendo che non ci sono due piani. Uno è quello della rivelazione e l'altro è quello della storia, e con dei telefoni interni. È la identità. Il carattere divino è la sostanza della storia, non altro dalla storia. E allora tutto questo che abbiamo detto come progetto di ecumenismo, nel senso più totale, non può essere un quadro dottrinale, non può essere la delineazione di un ente, di una dimensione trascendentale dove l'unità si compie, può soltanto essere una serie di cammini storici, e di cammini storici che convergono. Noi abbiamo fatto tanto cammino da trovarci oggi qui, proprio dove siamo, cattolici, protestanti, non cristiani, eccetera, eccetera. Qual è il problema reale oggi? È che di qui iniziamo un cammino insieme, che di qui tracciamo proprio, sì, dei piccoli sentieri, percorriamo delle piccole tracce insieme. Ecco il problema dell'ecumenismo. Ritornare alla storia, vedere tutto quello che la storia ci offre di strumenti, di consolanti realizzazioni compiute, di impegni, ma poi tutto questo si traduce nel di qui partiamo per costruire dei cammini comuni. Questo è il vero senso della storia e, a mio giudizio, dell'ecumenismo. Ebbene, tutto questo dovrebbe essere, perché non l'ho ancora fatto, ma dovrebbe essere accuratamente misurato con le possibilità che questo quadro della comunicazione offre, con le impossibilità o quantomeno gli impedimenti che oppone, e con le realizzazioni che invece ci sono. Ecco, questo diventa problema. E allora a questo punto potremo davvero dare un qualche indirizzo di soluzione al tema della valenza ecclesiale, genuina, reale, non supposta, non ipotizzata, non postulata, ma reale del Magistero d'oggi. Credo che sia un problema squisitamente teoretico anche, che possa dare risposta ad un'esigenze pastorali oggi più urgenti. Grazie. Senz'altro, sì, per fare il magistero.